Koinonia. Koinonia è una parola greca che significa comunione fraterna. Koinonia è una parola greca che significa comunione, connessione. Koinonia è un termine meraviglioso perché è ricco in quanto ci parla di partecipazione, di associazione. E io di koinonia voglio parlarvi questa mattina, perché io credo che dobbiamo recuperare il nostro stare insieme, quindi la comunione fraterna, il koinonia. E lo vogliamo fare proprio in una maniera pratica. Lo stiamo facendo con i ritiri, ma ad agosto avremo 2 incontri domenicali che vivremo interamente a Rifugio, proprio perché ci piace quel posto, e staremo insieme per non avere un incontro che dura un'oretta, 1:10, 1:15, ma per stare l'intero pomeriggio, la sera, a cenare insieme e passare del tempo ad ascoltarci, a incontrarci, a conoscerci. Ci sono troppe persone che durante l'epidemia hanno accettato il Signore, sono entrate a far parte di questa Chiesa e che non tutti noi conosciamo. Dobbiamo conoscerci perché siamo famiglia. Dobbiamo essere connessi gli uni agli altri e vivere coinonia perché Dio ha stabilito che la Chiesa non siano 4 mura nelle quali una folla si riunisce per poi tornarsene a casa, ma la Chiesa è il corpo di Cristo che cammina insieme, che vive insieme, la famiglia di Dio che vive una quotidianità nella fede in connessione gli uni con gli altri. Per questo sarà bellissimo anche vivere quello che andremo a vivere ad agosto, ma oggi abbiamo la cena del Signore e ci sono così tante cose che potremmo dire della cena del Signore. Sappiamo che la cena del Signore ci presenta questi 2 simboli che sono il pane e sono il vino e sono dei simboli che ci ricordano la morte e la resurrezione di Cristo Gesù, il suo sacrificio perfetto. È Gesù che ha istituito la cena ed è un atto che lui ha ordinato ai suoi discepoli e che noi oggi continuiamo a vivere perché lui ha detto: fate questo in memoria di me. Quindi noi continuiamo a vivere la cena del Signore perché è un'azione che ci porta a muoverci nell'intelletto, nella memoria, nel ricordare quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha patito, il suo sacrificio perfetto che oggi dona a noi salvezza e pace. Quindi quando noi celebriamo la cena del Signore ci sono così tante cose che avvengono. Noi ricordiamo. La parola di Dio dice che noi annunciamo Cristo Gesù. La parola di Dio dice che anticipiamo quello che avverrà in eternità perché mangeremo questa cena con Dio. La cena del Signore ci parla della Pasqua ebraica e questa è una Pasqua migliore perché Gesù è il miglior liberatore, molto meglio di Mosè. Lui ha liberato noi, un popolo in schiavitù, ci ha liberati dalla morte, dal dominio del diavolo, del peccato, della morte, e in lui noi siamo salvati, liberati, vivi e santi, santificati in Cristo Gesù. Ci sono tante cose che potrei dire della cena del Signore, ma c'è qualcosa nello specifico che voglio condividere con voi oggi che ha a che fare con questa parola che già ho nominato, koinonia. Andiamo a leggere insieme quello che c'è scritto in 1 Corinzi, al capitolo 10, dove l'apostolo Paolo sta parlando dell'idolatria e sta cercando di spiegare alla Chiesa, ai Corinti, che mangiare dei cibi sacrificati agli idoli è un entrare in connessione con demoni. E per spiegare questo porta l'analogia della cena del Signore per farci comprendere una verità spirituale di fondamentale importanza. Qui l'apostolo Paolo dice, la Bibbia che ci parla, e che tra l'altro abbiamo letto qualche mese fa nella nostra lettura quotidiana, dice: perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. È per questo che vi ho voluto leggere questo verso. Siete contenti? Grazie, dice qualcuno. Siamo persone intelligenti. Io parlo come a persone intelligenti. In altri termini, l'apostolo Paolo sta dicendo: se sei intelligente, ascolta quello che ti sto per dire, perché altrimenti se non lo ascolti sei stupido e rientri in un'altra categoria. Giudicate voi su quello che vi dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. L'Apostolo Paolo qui sta facendo due domande retoriche la cui risposta implicita è sì. Sì! Non è forse la comunione con il sangue di Cristo il calice dal quale beviamo? Sì! Non è forse comunione con la carne di Cristo Gesù, con il corpo di Cristo Gesù, il pane che noi rompiamo? Sì, la risposta implicita è sì, il vino è comunione con il sangue, sì, il pane è comunione con il corpo. E questa comunione, questo termine che l'Apostolo Paolo usa, comunione, è per l'appunto coinonia, è connessione, è condivisione, è partecipazione, è intimità, è appartenenza. Tutte queste cose avvengono nel momento in cui noi ci cibiamo di quel pane e beviamo di quel vino. C'è una comunione. Non avviene solo qualcosa di fisico, mangiare, bere, e non avviene neanche qualcosa di intellettuale, ricordare quello che Gesù ha fatto. Avviene qualcosa di spirituale. C'è una connessione spirituale che può essere paragonata al nostro pregare. Quando tu mangi quel pane, stai entrando in una comunione con Cristo Gesù, con il suo corpo, che è come pregare. Quando bevi, è come se tu stessi adorando. Per questo è così importante la cena del Signore. Non è solo un ricordo, non è solo un annuncio o una proclamazione, è un associarsi completamente a Cristo Gesù. E quando tu ti associ al suo sangue, stai riconoscendo che in virtù di ogni goccia che è uscita dal suo corpo di sangue, tu hai potuto beneficiare del suo perdono, del suo lavaggio, della sua consacrazione. Vi ricordate che gli oggetti del tabernacolo, gli oggetti del tempio per essere consacrati, veniva sperso su di essi il sangue del sacrificio, per dire questo è un luogo santo, questi sono oggetti appartati. Il sangue di Gesù e la nostra comunione, connessione con il sangue di Gesù ci ricorda che noi siamo appartati per Lui, santificati, siamo Suoi. Il corpo di Cristo Gesù con il quale entriamo in comunione, in connessione, ci ricorda quello che l'Apostolo Paolo dice in Galati 2 al versetto 20: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E il verso va avanti dicendo: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se essere in comunione col sangue di Gesù significa riconoscere una consacrazione, essere in comunione con il corpo di Cristo Gesù ci porta a riconoscere che il nostro corpo, il nostro di corpo, non è più nostro. Perché il corpo di Gesù di che cosa ci parla? Non ci parla forse della sua azione su questa terra? Con quel corpo Gesù si è mosso, ha camminato, è entrato nei villaggi, ha toccato, ha guarito, ha parlato, ha annunciato verità, ha guardato, ha servito, ha lavato piedi. E quando noi entriamo nella comunione con il corpo di Cristo, noi non ricordiamo solo quello che Lui ha fatto con il suo corpo, cioè sacrificarlo nell'atto della morte, di crocifissione, ma ci ricordiamo e entriamo in connessione con la missione che con quel corpo Cristo ha portato avanti su questa terra. E diciamo: quella missione è la mia missione. Quella vita entra in me per essere vita in me. Non crediamo nella transustanziazione, cioè che il pane diventa effettivamente la carne e il vino diventa effettivamente sangue. Non avviene questo, ma c'è una connessione con questi simboli ed è per questo che prendere questi simboli con un discernimento al quale l'Apostolo Paolo ci invita produce un beneficio nelle nostre vite, perché rinnova il nostro patto, la nostra appartenenza, la nostra connessione con Cristo Gesù. C'è un'altra cosa che accade e che voglio sottolineare, che abbiamo letto in questi versi. In 1 Corinzi 10, al versetto 17, c'è un'altra connessione che ci viene illustrata e presentata nell'atto della cena del Signore. C'è scritto: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Ve lo rileggo perché non vedo l'entusiasmo che avrei voluto percepire nella sala. Ve lo rileggo e magari concludete con un amen, anche con un gesto solo simbolico della testa che annuisce, no? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Amen. Siamo uno. E la cena del Signore ci ricorda che siamo uno. Quello che andiamo a vivere adesso ci ricorda che tu non sei solo, che tu non hai solo una relazione con Cristo, che non sei in connessione solo con il suo sangue e con il suo corpo, ma sei in connessione col suo sangue e con il suo corpo insieme a molti altri che sono uno con te. Questo avviene nella cena del Signore. Nella cena del Signore noi riconosciamo che in molti così diversi, con storie diverse, siamo uno. Chiesa, noi siamo uno. Chiesa, noi siamo uno, è Dio che ci ha uniti. E del matrimonio noi leggiamo: ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. E se è vero per il matrimonio, come è vero per il matrimonio, lo è altrettanto vero per la Chiesa. E quando ci sono in noi pensieri, sentimenti, parole, voci, discorsi, mormorii, atti a dividere, noi dobbiamo riconoscere che c'è un'opera satanica in atto. Perché Dio viene per unire. E Dio ha stabilito unione per la Chiesa e il diavolo fa sempre l'esatto opposto. E oggi noi possiamo ricucire relazioni. Abbiamo vissuto la cena del Signore da casa, che è stato bello e utile per quel periodo che era necessario. Però sapete, nel contesto di 1 Corinzi 11, che è il capitolo successivo dove l'Apostolo Paolo continua a parlare della cena del Signore, la inquadra in quella riunione, in quell'adunanza della Chiesa. Per più di tre volte, se non ricordo male, lui dice: quando vi riunite, quando vi riunite, quando vi riunite e celebrate la cena del Signore, e poi parla della cena del Signore. Quando la Chiesa si riunisce, tutta, la cena del Signore acquisisce ancora più valore. Si impreziosisce del fatto che noi abbiamo la possibilità di vedere non solo una parte della chiesa locale di appartenenza, ma il maggior numero dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Perché probabilmente con quella parte ci troviamo bene. Ma Dio vuole che noi ci connettiamo a tutta la restante parte. E oggi, sapete, voglio aggiungere questo, ci sono tante altre chiese in ogni parte del mondo che celebrano con noi la cena del Signore e sebbene sono credenti che noi non conosciamo, sono di altre culture, di altre etnie, sono uno con noi, uno con noi. Siamo uno e questa connessione Dio l'ha stabilita nel suo sangue, perché questa unità deriva dal fatto che tutti siamo stati salvati in quel sangue, consacrati in quel sangue e viviamo una vita nuova in virtù di quel sacrificio della sua morte e resurrezione e in virtù del suo corpo. Ciò che ci unisce non è solo la salvezza eterna, ma ciò che ci unisce è anche la missione del corpo di Cristo che si mobilita in azione per continuare a portare avanti quello che Gesù ha cominciato a fare 2000 anni fa. La Chiesa è attiva oggi per portare salvezza, per portare liberazione, per portare guarigione, per toccare, per raggiungere, per aiutare, per servire, per lavare. Noi siamo il corpo di Cristo e noi oggi abbiamo modo di riconoscerlo, ricordarlo e valorizzarlo attraverso la cena che andiamo a vivere. Quindi voglio invitarti ad alzarti in piedi. E voglio invitarti in questo che sarà un tempo di comunione con il corpo e con il sangue di Gesù, a vivere intensamente. Gesù, attraverso la sua parola, ci invita a esaminare noi stessi quando prendiamo la cena del Signore, a farlo discernendo il suo corpo, a discernere queste verità che vi ho appena elencato. E quello che voglio invitare la Chiesa a fare nel prendere il pane, nel prendere il vino, nel tornare al proprio posto poi dopo, è a guardarci. La cena del Signore non dovrebbe essere vissuta come un atto individualista, come qualcosa che ci apparta e ci chiude solo in un'intima connessione con Dio, proprio perché è una connessione con la Chiesa. Quindi osserva chi con te prende quel pane, chi prende quel vino, e magari al posto di pregare per te, per quel momento che stai vivendo, prega per qualcun altro. Non necessariamente andando a quella persona, ma tornando al tuo posto, prega per qualcuno che hai visto nel tragitto, che hai vissuto insieme, che hai fatto insieme per prendere quel pane, quel vino. C'è un verso che voglio leggervi. Si trova in Efesini 4, parla della Chiesa. Parla delle relazioni nella Chiesa. E dice così: via da voi ogni amarezza. Via da voi ogni amarezza. È un ordine. Via da voi ogni amarezza. Hai amarezza per qualcuno? Via da te. Hai risentimento per qualcuno? Via da te. È una scelta che Dio ti invita a fare. È un comando che Lui ti affida. E afferrare e mantenere quell'amarezza è una disubbidienza alla parola di Dio. Dio ti dice: lascia l'amarezza. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni pesantezza, ogni cosa che grava su di te, nelle relazioni, perché qui sta parlando di Chiesa, sta parlando e si sta rivolgendo alla Chiesa in Efeso e a noi oggi. Via da noi ogni cruccio. Hai un cruccio per qualcosa che hai vissuto. Forse hai vissuto proprio un torto, forse hai vissuto qualcosa che ti ha ferito nella Chiesa. Ogni ferita che noi viviamo nella nostra vita è una possibilità in più per assomigliare a Cristo nel perdono. Lo ripeto, ogni ferita che noi viviamo nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, ogni torto che subiamo è un'opportunità in più per assomigliare a Cristo nel perdono. Il corpo di Cristo, la bocca di Cristo su quella croce ha pronunciato queste parole: Dio perdona loro. E si rivolgeva a coloro che lo avevano torturato, lo avevano appeso su quella croce, lo avevano schernito, avevano sputato, avevano strappato la sua barba, gli avevano messo una croce di spine, gli avevano messo un mantello e poi lo hanno picchiato con un bastone e gli hanno detto se sei il re dei giudei scendi da quella croce. Lo hanno preso in giro in ogni maniera, è lui che dice con la sua bocca, il suo corpo: perdonali, perché è per loro che stava morendo. Anche per loro che stava morendo. E Gesù è morto per quella persona che ti ha fatto un torto. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira. Vedete, è una successione. Tutto parte dall'amarezza e poi diventa un cruccio e poi diventa ira, diventa rabbia, diventa insopportazione, diventa l'incapacità di guardare in faccia quella persona, diventa stanchezza, diventa rabbia, qualche esasperazione dell'anima. E Dio dice: via da voi tutte queste cose. Non è meraviglioso che Dio ci invita a essere liberi? Liberi da queste cose. Quanto è triste una vita che vive nell'amarezza. Quanto è pesante una vita che vive nel mantenere conto di tutti i torti subiti. Quanto è pesante una vita vissuta così. E Dio ti dice: via, fai come me, sii libero, via. Via ogni clamore. Chiesa, noi viviamo nella società dei clamori. Noi viviamo nella società del gossip. Vere o false che siano le notizie, amiamo fare clamore. Amiamo parlare, sparlare, gonfiare, esasperare situazioni, circostanze, per sentito dire o che abbiamo appreso, e formiamo gruppi e abbiamo adesso una vita virtuale che accentua tutto questo. È la società del clamore, quella nella quale viviamo, dove si, con le parole si ammazzano persone. Non nella Chiesa, non noi. Noi siamo la luce del mondo. Noi siamo non conformi a questo mondo. Via da noi il clamore. Quando c'è una sorella, un fratello che ti viene a dire: sai questo e quest'altro, puoi guardarla negli occhi e dire: sai cosa? Non ne voglio parlare. Sai cosa? Forse è utile, molto più utile, che preghiamo. Sai cosa? Questo è tempo perso. Anzi, è tempo regalato al nemico, che mette in noi cruccio, amarezza, e ci fa vivere delle vite miserabili, disconnesse dal contesto migliore che Dio ha dato a nostra disposizione, ovvero la Chiesa sua. Via il clamore. Via la parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Quando leggo queste cose mi viene da sorridere, perché dico: la Chiesa non è mai cambiata, è sempre la stessa. Però noi abbiamo modo di essere splendenti nelle parole che seguono. Siate invece. Seguite queste parole, perché queste ci definiscono. Amen. Le vogliamo far nostre, anzi sono nostre. Siate invece benevoli. Benevoli. Grazie Clarissa. Grazie Cinzia. Grazie Bianca. Grazie Anna. Grazie Giuseppe. Posso fare qualcosa per te, Giuseppe? Hai un laccio slacciato che posso... Hai bisogno di maggiore ventilazione, Giuseppe. Chi se ne frega che si vede il ventilatore bianco? Devi stare bene, sei mio fratello. Ti voglio bene, mi stai servendo. E ti sto facendo suonare da un quarto d'ora. Grazie. Benevoli. Benevoli. Benevoli. Siate benevoli e misericordiosi. Misericordiosi. Offrire grazia. Offrire grazia. Carmine, mi hai messo il leggio al posto sbagliato, ma sai cosa? È più bello qua. Più bello qua, hai scelto bene. Ti voglio bene, ti offro grazia. Perdonami se ti ho messo in ridicolo davanti a tante persone. Grazia. Benevoli, misericordiosi, gli uni verso gli altri, e poi aggiunge: perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. La cena del Signore ci ricorda il perdono che abbiamo in Cristo. Non c'è modo di celebrare la cena del Signore in maniera degna se non hai perdonato il tuo fratello o la tua sorella. Ti fai del male, ti fai del male. Lo sapete perché? Perché la parola di Dio dice che addirittura c'è giudizio nel momento in cui noi indegnamente partecipiamo alla cena del Signore. C'è giudizio. Ci sono cose sbagliate che non dovrebbero mai accadere. Perché stiamo indegnamente prendendo quel pane e quel vino. Vuoi prenderlo degnamente oggi? Devi scegliere prima di perdonare. Oggi, 4 luglio 2021, noi celebriamo la cena del Signore dichiarando che la Chiesa Pieno Vangelo è unita a Cristo e dichiarando che la Chiesa Pieno Vangelo è unita gli uni agli altri in una stagione nuova dove noi sceglieremo di rinvigorire le nostre relazioni, in una stagione nuova dove noi sceglieremo di rinvigorire la nostra connessione, il nostro essere uno in Cristo Gesù. Siete con me in questo? Amen. Vogliamo pregare insieme? Alza le tue mani. Signore, in arresa davanti a te, vogliamo vivere questo tempo che ci sta davanti avendo piena consapevolezza di quanto quel pane, quel vino è prezioso, perché simboleggia quello che tu hai fatto con tanta sofferenza per noi, per darci tutto quello che oggi abbiamo: la salvezza, il perdono, l'eternità, l'amore reciproco, l'appartenenza a una chiesa. Noi siamo grati a te per tutto questo. E io voglio benedire questo tempo, che possa essere un tempo di connessione con te, ma anche di intercessione, di amore, gli uni nei confronti degli altri. Vuoi tu insegnarci ad amarci di più e ad amarci meglio? Nel nome di Gesù lo prego. Amen. Amen. Alleluia. Possiamo muoverci dai nostri posti ordinatamente, mantenendo la distanza, e vogliamo partecipare alla cena del Signore. Noi, quale istruzione di chiesa, invitiamo chi non è battezzato da adulto a non partecipare ancora alla cena, perché riteniamo che quello è un gesto, un'azione del credente che stabilisce proprio la sua scelta di appartenere a Cristo al 100%, di lasciare la vecchia vita e vivere nella nuova vita. Ma se hai consapevolezza del vero significato della cena, del vero significato del pane e del vino, e lo vuoi prendere in piena coscienza di quanto appena abbiamo detto, allora lo puoi fare, puoi partecipare a questa cena e possiamo farlo insieme. Forza Chiesa, possiamo andare ai tavoli.